Tornato uomo, mi cercai una brava e bella ragazza tebana, me la sposai. Ebbi due figli, un maschio e una femmina. La femmina, che si chiamava Manto, veniva su un po' strana, poi ne capii il perché. La mia vita scorreva tranquilla e serena, quando un giorno sull'Olimpo scoppiò una discussione tra Zeus e sua moglie Era. Dovete sapere che Zeus ed Era non erano soltanto marito e moglie, ma erano anche fratello e sorella, che si amavano e si detestavano appassionatamente. Pensate che il loro primo amplesso durò 300 anni di seguito, senza un attimo di sosta, senza un attimo di respiro. 300 anni durante i quali il mondo cadde nel caos. E tutti lì a invocare Zeus, Zeus, Zeus, ma Zeus se ne stava brancato alla sua Era e non rispondeva a nessuno. Volete sapere qual era l'oggetto della discussione? Bene, se nell'atto sessuale provasse più piacere l'uomo o la donna. Per tagliare la testa al toro, Zeus decise di convocare me in qualità di esperto, dato che ero stato uomo ed ero stato donna. Prima di rispondergli, ci pensai un po', perché di sicuro la mia risposta sarebbe dispiaciuta a uno dei due. Quindi, chi non dispiacere, optai per Era, della quale conoscevo gli scoppi di ira irrefrenabili e le sottilissime vendette a lungo meditate. Perciò risposi che nell'atto sessuale esistono 10 gradi di piacere e che di questi 10 gradi di piacere la donna ne raggiunge 9, mentre all'uomo ne rimane solo uno. Ebbene, la reazione di Era fu del tutto inaspettata, il contrario di quello che pensavo. Si arrabbiò moltissimo. Ora, per secoli gli studiosi si sono interrogati sul motivo di questa arrabbiatura e non ne sono venuti a capo. Io, nel mio piccolo, perché credo di averlo trovato, si basa sull'antichissimo proverbio tra moglie e marito non mettere dito. Può darsi, dico può darsi, che di quei 9 gradi di piacere la povera Era ne avesse raggiunto a stento 2 o 3, anche nei 300 anni dell'amplesso continuato. È ragionato? Quanto sta? Era, balzò in piedi, mi si avvicinò, mi pose una mano sugli occhi e m'accecò. Caduto di colpo nel buio, mi mise a urlare: ma questi sono scherzi da preti! Ma come, Zeus, mi convocate come arbitro e m'accecate? Zeus, rivoglio la vista! Ehi, figlio caro, non